Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Missione all'estero, tensione nella maggioranza, la Lega vuole il ritiro d'Afghanistan, Libano e Balcani, il PDL non ci sta, repliche dure da Frattini e La Russa. Resta aperto il fronte del Partito del Sud, Berlusconi promette più fondi, attesa per una risposta da Lombardo o Micicchè. Oggi CDA decisivo per risanamento, sul tavolo le dimissioni di Zunino, titolo sospeso in borsa. Sta meglio ed è già uscito dall'ospedale il presidente francese Nicolas Sarkozy, aveva avuto un malore mentre faceva sport. Ed è ancora in ospedale il pilota della Ferrari Felipe Massa, ma anche lui, stando a quel che dicono i medici e la scuderia, sta bene. Ronde e antironde, scontri a massa tra ultradestra e ultrasinistra. Tra poco l'intervista al sindaco. Primo derby dell'anno è quello milanese e si è svolto a Boston. Milan bastonato dall'Inter. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque un'ampia pagina di politica, perché ci sono due fronti di tensione in questo momento all'interno della maggioranza. Il primo riguarda le missioni all'estero, il secondo il cosiddetto Partito del Sud e i fondi per il Mezzogiorno. Di questo secondo fronte parleremo tra un attimo. Iniziamo proprio dalla questione Afghanistan, una questione scatenata dalle parole di Umberto Bossi nella serata di sabato, che ha detto: fosse per me li riporterei tutti a casa, riferendosi ai soldati. Gli aggiornamenti di oggi dalla nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno Simone, si può dire che la Lega sia contro tutti sull'Afghanistan, perché questa mattina Roberto Calderoli ha rilasciato un'intervista a Repubblica dove afferma che la democrazia non si esporta, venendo proprio dietro le parole di Umberto Bossi dei giorni scorsi, e ha praticamente auspicato il ritiro non solo dall'Afghanistan ma anche dal Libano e dai Balcani. Allora, a replicare immediatamente sono intervenuti i ministri degli esteri Frattini e della difesa La Russa. Per Frattini: siamo in Afghanistan anche per la Lega, lavoriamo per la sicurezza anche dell'Italia e quindi di Calderoli. Tutte le opinioni sono rispettabili, ma queste sono opinioni personali. Il governo ha già una visione che è stata approfondita. Questa mattina poi è tornato a parlare anche La Russa. La missione italiana è irrinunciabile, dice il ministro della difesa. Non ci sono contrasti con la Lega, a meno che voti contro la missione. In Parlamento il governo proporrà che i nostri militari possano usare il cannoncino dei Tornado in caso di attacco delle truppe a terra. Da parte dell'opposizione, Marina Sereni del PD parla di un problema molto serio nella maggioranza e nel governo. L'esecutivo deve chiarire la sua linea e per il PD non si può abbandonare il paese alla vigilia di una difficilissima scadenza elettorale, ma la missione va ridefinita. D'accordo con la Lega, a sorpresa, per il ritiro uno strano asse si sta creando, che è quello Lega Italia dei Valori. Allora sentiamo Antonio Di Pietro. Meglio tardi che mai. Noi dell'Italia dei Valori da sempre siamo stati contrari a fare le guerre. Lo abbiamo detto per l'Iraq, lo ribadiamo per l'Afghanistan, dove le buone intenzioni si sono infrante su quel che è una guerra in atto. Insomma, Simone, questa è la situazione, ripeto, Lega contro tutti sull'Afghanistan. A te. Grazie Elisabetta Fiorito. C'è sull'altra questione che anima la maggioranza, arriveremo tra un attimo. Andiamo intanto nel mezzo, tra i due schieramenti. L'UDC oggi riunisce la sua assemblea e anche questi sono i temi all'ordine del giorno. Se è veramente così, lo chiediamo alla nostra Alessandra Schepisi, che ne sta seguendo i lavori, sta seguendo i lavori di questa assemblea. Alessandra. Sì, buongiorno, proprio così ad aprire l'assemblea dell'Unione di Centro questa mattina è stato il segretario Cese. La sua prima battuta l'ha rivolta alla Lega. Parole allucinanti quelle sull'Afghanistan, non si scherza sulla pelle dei nostri soldati, ha detto Cese, che invita Bossi e Calderoli a smentirle immediatamente. Quanto invece alle questioni interne, all'Unione di Centro, il segretario ha annunciato che a settembre si terranno gli stati generali, primo passo per la costruzione del nuovo partito, che non sarà né un partito caserma né una torre di Babele. L'UDC poi rivendica con forza la propria identità. Per le regionali del 2010, dice Cesa, la bussola sarà una sola, i programmi e non l'alleanza. Infine, bocciatura totale di un partito del Sud, una butade che non farebbe che rendere ancora più acuti i problemi dell'Italia, ma i cittadini meridionali, ha detto Cesa, sono vaccinati e sanno come riconoscere gli imbonitori. E da Roma per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi anche per averci introdotto al tema successivo, che è l'altro tema, come si dice, diceva, di tensione all'interno della maggioranza, ossia il cosiddetto Partito del Sud. Ci sono state ieri le parole di Silvio Berlusconi che dovrebbero contribuire in qualche modo a placare gli animi all'interno della maggioranza. Se è così, lo chiediamo al nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. La maggioranza, quella di governo, è effettivamente in fibrillazione intorno alla questione mezzogiorno ed è così palpabile questa situazione al punto che ieri è dovuto intervenire, come dicevi tu da studio, lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi a dettare la linea. Il governo non ha mai trascurato i problemi del Meridione, ha scritto in una nota il Premier che ha promesso tempi rapidi per lo sblocco dei fondi FAS per il Sud e un piano innovativo per il suo rilancio. Tra i destinatari del comunicato di Berlusconi certamente pezzi dell'ex Forza Italia, a partire da Gianfranco Miccichè, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che da giorni minaccia l'addio al PDL per fondare il Partito del Sud, e poi il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, ma anche parlamentari siciliani vicini a Fini, pronti a varare Forza Sicilia. A ribadire oggi però qui in Parlamento la linea del Cavaliere, il capogruppo del PDL Cicchitto, che boccia così l'idea di un partito del Meridione. Sentiamo Cicchitto. Un nuovo partito sarebbe un controsenso rispetto alla semplificazione del sistema politico italiano da cui è nato il PDL, che ha avuto grandi consensi nel Mezzogiorno. Il problema vero è quello di accentuare una politica per il Mezzogiorno, specie per quello che riguarda un sistema interregionale di infrastrutture di cui parla Berlusconi nel comunicato di ieri. Queste le parole di Cicchitto. No ad un partito del Sud se deve essere un meridionalismo piagnone, dice dalla Lega il vice ministro Castelli. Dall'opposizione il Partito Democratico denuncia, a suo dire, l'abbandono del Mezzogiorno da parte del governo. Sentiamo allora la vice capogruppo Marina Sereni. Abbiamo denunciato più volte che questo governo è nemico del Mezzogiorno, non c'è una politica né di rigore né di sostegno al Sud, le risorse che erano destinate al Mezzogiorno sono state distolte per altri usi, come una sorta di bancomat. Oggi il Sud si ribella tardi, perché noi avevamo proposto in molte occasioni di dare più attenzione, più risorse e più iniziative concrete per il Sud. In chiusura ricordo che qui alla Camera sono in discussione gli ordini del giorno relativi al decreto anticrisi, il provvedimento sarà votato domani, passerà quindi al Senato. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Il nostro Vincenzo Miglietta citava il comunicato di ieri di Silvio Berlusconi, che parlava dei cosiddetti fondi FAS. Ma che cosa sono questi fondi FAS? A quanto ammontano e soprattutto quanto ne rimane dopo l'utilizzo che ne è stato fatto nei mesi scorsi? Sentiamo. Il Fondo per le aree sottoutilizzate è lo strumento con il quale da diversi anni lo Stato italiano rafforza i fondi strutturali dell'Unione Europea destinati a colmare il divario di sviluppo delle zone più povere del Paese. In origine le risorse per il periodo 2007-2013 avevano raggiunto la ragguardevole cifra di 63,2 miliardi, di cui l'85% destinato alle regioni del Mezzogiorno. Ma già con la manovra della scorsa estate il FAS aveva subito un decurtamento di 12,5 miliardi sul periodo 2009-2011, soldi che venivano assegnati ad altre opere di interesse strategico nazionale, pur nel rispetto del criterio dell'85% al Sud. Le regioni hanno denunciato il taglio come una violazione delle loro attribuzioni, un atto di centralismo, anche se è innegabile che in passato molte di esse, specie nel Mezzogiorno, abbiano utilizzato male queste risorse, come altre di origine nazionale o comunitaria. Tuttavia, sulla gestione del FAS da parte del governo c'è anche un'altra contestazione. Come denunciato da più parti, ai soldi del FAS l'esecutivo ha finora attinto per necessità estranee alla natura del fondo, dall'operazione sulla prima casa, ai contributi per gli allevatori delle quote latte, ai finanziamenti a Roma e Catania, fino ai contratti di servizio con le ferrovie. La goccia che ha fatto traboccare il vaso delle rivendicazioni delle regioni meridionali è stata però la bocciatura del piano della regione Sicilia da 4,3 miliardi. Ora l'annuncio del Presidente del Consiglio potrebbe sbloccare la situazione, ma resta da capire quanto rimanga a questo punto di quegli oltre 63 miliardi. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:10 minuti passiamo dall'economia, dalla politica economica alla finanza. Dirò una frase che forse nei giorni scorsi abbiamo già detto qualche volta, ossia: giornata decisiva per Zunino e per risanamento. Sarà vero oggi, Deborah Rosciani? Simone, buongiorno, lo speriamo, ma a giudicare da come è intricata la matassa di quello che potrebbe essere un altro grande crack finanziario del nostro paese, forse anche oggi è una una giornata che non potrebbe essere decisiva. In ogni caso è previsto per oggi pomeriggio, per le 17, per le 18, anche intorno all'orario c'è il più fitto mistero, il Consiglio di Amministrazione di Risanamento, che è chiamato ad esaminare il piano di salvataggio del gruppo immobiliare gravato da 3 miliardi di euro di debiti. Stanno anche proseguendo nel frattempo gli incontri fra i protagonisti di questa vicenda. Si tratta sulla stesura finale del piano che, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà presentato al Tribunale Fallimentare di Milano mercoledì prossimo, che ha chiesto appunto la bancarotta del gruppo. Sabato scorso le principali banche creditrici, Unicredit, Intesa San Paolo e Banco Popolare, hanno intanto concordato un piano di salvataggio per risanamento da 500 milioni di euro, 150 milioni di aumento di capitale e 350 milioni di prestito convertendo a 5 anni. Però, secondo le indiscrezioni, l'advisor di tutta l'operazione Banca Leonardo avrebbe avanzato due richieste a favore dell'immobiliarista Luigi Zunino, ovvero la cancellazione di interessi per 20 milioni di euro e nuova finanza per le finanziarie a monte di risanamento. Solamente quest'ultima richiesta sarebbe stata accolta. Oltre che all'approvazione del piano di salvataggio del gruppo, il Consiglio di Amministrazione in calendario oggi è chiamato anche alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e dovrebbe procedere alla cooptazione del nuovo presidente, mentre per il nuovo amministratore delegato, ricordiamo che Zunino si è dimesso da queste cariche ma potrebbe abbandonare qualsiasi ruolo in società. Dicevo, come nuovo amministratore delegato per questa nuova figura si fa strada l'ipotesi di un rinvio all'autunno. Intanto oggi in borsa le azioni del gruppo sono state sospese in attesa di nota. Probabilmente questa nota dovrebbe riguardare proprio il fatto che Zunino abbandona qualsiasi ruolo nella società. E per adesso, Simone, è tutto. Grazie Deborah, e vedremo che cosa succederà dunque nel corso della giornata. Parliamo di sport adesso, né di ciclismo né di nuoto, ne parleremo più avanti, ma di calcio, una volta tanto in questo periodo nel quale, insomma, di solito non se ne parla. Perché ieri è stata la giornata del primo derby di stagione che è stato quello milanese. Sentiamo. Metti una sera a cena a Boston a guardare il derby Milan-Inter. Nelle logiche commerciali del calcio moderno può succedere anche questo, ed è appunto quanto avvenuto ieri alle porte di Boston, dove Milan e Inter hanno dato vita ad un inedito derby d'America. Amichevole, ci mancherebbe, ma sempre derby. Ha vinto l'Inter con merito 2-0, soprattutto grazie all'argentino Diego Milito, vero protagonista della partita. Lui infatti ha messo a segno i due gol dell'incontro, lui ha esultato felice davanti ai 42.000 tifosi italo-americani, a loro volta felici anche quelli che indossavano i colori rossoneri, perché a Boston ha vinto soprattutto l'evento festeggiato in nome dell'Italia, tra hamburger e popcorn, una festa di calcio come non si vedeva da anni da queste parti del Massachusetts. Forse è per questo che ha voluto essere presente anche Massimo Moratti, perché un derby è sempre un derby, per carità, vale di certo un viaggio in America. Se poi ti capita anche di vincerlo col minimo sforzo, allora valeva proprio la pena di mettere una sera a cena a Boston a parlare di calcio e italiani. Il Milan ci prova a guardarla così, a prenderla come viene, ma è più difficile. Se non proprio con le ossa rotte, torna in Europa col fiato corto, e a Monaco di Baviera lo attendono ora Manchester e Bayern. Leonardo a Boston ha parlato chiaro: qui servono rinforzi. Luciano Clerico, GR24, Il Sole 24 Ore, Boston. Le 13:16, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dei due fronti di tensione all'interno della maggioranza, ossia le missioni all'estero con la Lega che chiede il ritiro da Afghanistan, Libano e Balcani, e il PDL che non ci sta, le reazioni dure di Frattini e La Russa, e poi l'altro fronte di tensione, ossia quello del cosiddetto partito del Sud. Berlusconi promette più fondi, si attende una risposta da Lombardo e Micica. Poi abbiamo parlato del CDA decisivo, di un CDA importante se non decisivo per risanamento, ossia sul tavolo le dimissioni di Zunino. E poi abbiamo parlato anche del primo derby dell'anno, che è quello milanese che si è svolto a Boston, con il Milan che è stato sconfitto dall'Inter 2-0. Adesso ci occupiamo delle condizioni di salute di Nicolas Sarkozy, il presidente francese. Attilio Geroni, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora Attilio, iniziamo dalla pura e semplice cronaca. Il presidente è uscito dall'ospedale stamattina. È uscito intorno alle 11 a piedi, mano nella mano con la sposa Carla Bruni, I medici gli hanno prescritto un relativo riposo, infatti domani c'era in programma una visita alla Mont Saint-Michel, all'abbazia, per celebrare la giornata di tutela del patrimonio dell'ambiente. Ecco, questo impegno, da quello che ho saputo, è stato cancellato perché i medici gli hanno hanno fatto molta pressione sul presidente, che di suo sarebbe già andato domani all'abbazia di Mont Saint-Michel per rispettare gli impegni presi. Ecco, Attilio, proprio a proposito di impegni, su questo malore del presidente, che a questo punto immaginiamo non preoccupi più di tanto la Francia, può aver influito proprio l'iperattività? Allora sì, si dice che c'è una scuola di pensiero cinica che sostiene che lo sport faccia male, ma secondo me non è tanto lo sport quanto lo stress a monte dell'attività di questo presidente. Noi di Sarkozy possiamo parlare bene o male sulle sue riforme, sulla qualità delle riforme, ma nessuno può negare un impegno che è a 360 gradi e 365 giorni all'anno. Ho fatto due calcoli, dall'inizio dell'anno, quindi in poco più di 6 mesi, il presidente francese ha avuto 21 trasferte all'estero e 30 trasferte sul territorio francese, senza contare gli impegni di rappresentanza all'Eliseo, quindi un tour de force notevole. Lui viaggia il triplo di quanto non viaggiava il suo predecessore, cioè Jacques Chirac, quindi a monte c'è uno stress da lavoro, poi lo sport secondo me è la parte minima dello stress di Sarkozy. Anzi serve a scaricare. Attilio, un'ultima cosa, hai scritto un pezzo interessante oggi che potete trovare tra l'altro sul sito del Sole 24 Ore, www.elsole24ore.com, sulle malattie presidenziali francesi. Qual è il punto? Le malattie presidenziali francesi sono circondate dal segreto non meno di quanto non sia circondato dal segreto la vita privata, gli amori dei presidenti. Quindi esiste una letteratura ampia a riguardo, ricorderò soltanto due episodi. Georges Pompidou, che morì nel 1974 senza aver neanche completato il quinquennato, ebbene le cause della morte di Georges Pompidou vennero rivelate soltanto anni più tardi dalla vedova, e si trattava del morbo di Waldenström, che è una forma rara di linfoma. Il caso più clamoroso fu quello di Mitterrand. François Mitterrand si diceva che fosse affetto da un tumore, già la voce circolava nel 1981, che ricordo fu l'anno della sua elezione. La notizia del tumore alla prostata venne ufficializzata nel 92, quando venne operato, e nel 96, pochi giorni dopo la sua morte, uscì il libro, un libro scritto dal medico di famiglia Claude Guber, che si intitola Il Grande Segreto, che rivelava questo mistero della malattia, e diceva che era affetto dalla malattia dal 1981. Risultato di questa rivelazione, il libro fu sequestrato pochi giorni dopo l'uscita, e questo medico di famiglia di Mitterrand venne radiato dall'ordine dei medici, dice, condannato a 4 anni con la condizionale per violazione del segreto professionale. Bene, grazie anche per questo racconto, Attilio Geroni, grazie per essere stato con noi, buona giornata. A voi. E passiamo ad un'altra situazione clinica difficile, quella di Felipe Massa, il pilota della Ferrari, che ormai lo saprete, insomma, sabato durante le prove del Gran Premio d'Ungheria è stato colpito in testa da una molla che si è staccata dall'auto che lo precedeva, quella di Rubens Barrichello. È stato portato in ospedale, è stato operato, era in coma indotto. Ebbene, notizia di stamattina, sta meglio. Il pilota brasiliano della Ferrari ha avuto questa mattina delle comunicazioni passive con i medici, gli esami hanno dimostrato segnali positivi di miglioramento. Che cosa vuol dire comunicazioni passive? Vuol dire che ancora non parla, ma reagisce quando gli si rivolge la parola. L'incidente comunque ha riaperto le polemiche sulla sicurezza in Formula 1, tanto che c'è chi torna a parlare dell'introduzione sulle monoposto di un cupolino simile a quello delle gare di offshore. Sentiamo cosa ne pensa lo storico pilota Ferrari Jean Alesi. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Il cupolino è un po' un pericolo nel nostro mestiere per tante ragioni. La prima è che il pilota, nel momento che c'è un incidente, deve essere soccorso velocemente, e dopo con le strutture che ci sono su una Formula 1 se c'è il minimo problema che non riesce a far uscire il pilota, a quel punto lì diventa anche molto più pericoloso. Un altro problema è rappresentato dalle parti che si staccano dalle auto, come nel caso di Massa, connesso a tutto il discorso zavorre. Pensa che ci sia spazio di intervento? Certo, lì a quel punto lì tutte le parti che sono bullonate sulla macchina devono essere fatte di un modo molto diverso. Su questo sì, sono d'accordo. E questo era Jean Alesi, appunto. E noi passiamo dalle 4 alle 2 ruote, perché ieri si è concluso il Tour de France con un trionfatore che è lo spagnolo Contador, che è al suo secondo trionfo al Tour de France. Al Tour de France ha saltato un anno, però insomma, voglio dire. Ed è una figura particolarmente interessante, Dario Ceccarelli, no? Sì, è molto interessante perché innanzitutto ha battuto Armstrong al Tour de France e poi ha una storia in un certo senso non analoga ma quasi. Armstrong ebbe la famosa malattia, quel cancro che lo ha fatto diventare campione due volte, nel senso che riuscì a battere il cancro e poi dopo diventare il 7 volte vincitore del Tour de France. Contador ha avuto nel 2004 un aneurisma cerebrale, stava per morire e racconta la leggenda che disse: se c'è riuscito Armstrong a tornare al ciclismo e a vincere, ci riuscirò anch'io. In effetti, dopo un'operazione molto difficile, porta ancora la cicatrice di 70 punti alla testa, si riprese e divenne quello che è diventato. Faccio notare che oltre ai due Tour de France ha vinto anche un Giro d'Italia l'anno scorso e una Vuelta. Pochissimi hanno vinto il trittico. Si può parlare di gente come Anquetil, Merckx e Gimondi, basta. Ecco, Dario, e poi l'altra cosa interessante è che, a quanto sembra, almeno fino adesso, nessun supporto chimico. No, al momento no. Oddio, noi appena lo dico mi tocco ferro dappertutto, perché ultimamente, come dimostra il caso di Luca, così, le buone intenzioni sono una cosa, poi dopo un mese, due. Però adesso, scherzi a parte, finora non è stato toccato da nessun sospetto, e in più così è uno che insomma si è sempre espresso in maniera molto chiara. È vero che queste sue straordinarie performance, perché lui è andato bene sia a cronometro che in salita, e questo ha fatto storcere un po' la bocca, in particolare a Greg LeMond, che è un campione degli anni 80, che ha detto: ma come fa un bravo scalatore ad andare più forte di uno di un cronometrista? Come? E lui ha risposto che sì, lui ce l'ha fatta molto semplicemente. Beh, ce l'ha fatta. Però ricordiamo che alcuni campioni come, non so, appunto Merckx, come Coppi, riuscirono in questo, nel senso essere bravi scalatori e bravi cronometri. Certo, siamo nel campo dei grandissimi, qualità superiore. Ecco, spero che il futuro sia vedremo così. Vedremo e speriamo che sia confermato, appunto, che supporti chimici non ce ne sono stati. Grazie a Dario Ceccarelli. Ma che figura hanno fatto gli italiani in questo tour? Sentiamo. Franco Pellizzotti, onnipresente sul Tour de France. I francesi ieri l'hanno chiamato due volte sul podio. È il più combattivo, ma soprattutto indossa la maglia a pois del Gran Premio della Montagna. Franco Pellizzotti: ma penso che per noi italiani è un buon bilancio. Siamo partiti, eravamo 15 corridori, abbiamo vestito la maglia gialla per più di una settimana, la maglia a pois anche per più di una settimana, l'abbiamo portata a casa. Ho sfiorato molte volte la vittoria. Nibali è un bel giovane che sta crescendo, quindi penso che per noi italiani sia un bel tour. Ultime vittorie azzurre sul tour l'anno scorso con Ricco e Piepoli, poi trovati positivi all'antidoping. Pellizzotti non li invidia. Ma io preferisco questa maglia, io mi tengo questa maglia. Se dovessi fare il cambio per queste, per una o due vittorie, tengo questa maglia, perché questa maglia resterà nella storia. Per ritrovare Pellizzotti, Nocentini e Nibali in maglia azzurra, appuntamento a Mendrisio il 16 settembre ai mondiali di ciclismo. Nicola Accardo, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Parliamo del mondo di internet e dei social network adesso. Facebook, Twitter, Friend Feed. Abbiamo già parlato di quanto hanno rivoluzionato la comunicazione politica, ma cambiano adesso anche un'altra forma di comunicazione. E adesso Reclam. no, ma che carosello, non sono più gli anni 50, né gli anni 60, ma neanche il Novecento, perché nel 2009 tutto è cambiato. È cambiato soprattutto il modo di comunicare e tutto ha accelerato improvvisamente con la nascita dei social network, compresa l'evoluzione della pubblicità. Cristiano Callegari, copywriter e responsabile social media dell'agenzia Ambito 5. Fino a pochi anni fa le aziende parlavano ai consumatori solamente attraverso il linguaggio dell'advertising e delle pubbliche relazioni. In pratica sceglievano loro i contenuti, lo stile e quindi tutte le regole di questo tipo di comunicazione. Erano comunicazioni classiche che avvenivano secondo uno schema emittente-ascoltatore, quindi da un emittente verso più ascoltatori. Poi cosa è successo? È arrivato il web 2.0, web sociale come lo vogliamo chiamare. Sono i consumatori stessi che sono produttori di contenuti e lo fanno secondo uno schema da molti a molti, quindi sono innumerevoli conversazioni che si intersecano sulla rete. E di cosa parlano? Di tutte le cose che gli interessano e quindi anche dei brand, dei prodotti e delle aziende. A molte di queste conversazioni possono partecipare a pieno titolo anche le aziende. Un caso abbastanza divertente è avvenuto qualche mese fa, dove su Friendfit si è svolta una conversazione di fronte ad un certo numero di persone fisiche abbastanza allibite tra una grandissima casa editrice italiana, un motore di ricerca e una marca di rum. Aziende che dialogano direttamente coi protagonisti dei social network, ma anche aziende che utilizzano ad esempio i blogger come testimonial. Accade di tutto, diciamo che ormai la casistica anche italiana è nel bene e nel male, quindi negli esempi virtuosi e negli esempi diciamo viziosi abbastanza corposa. E quindi ci sono anche casi di cosiddetti pay per post, cioè aziende che pagano i blogger o le persone che scrivono in rete semplicemente per pubblicare delle recensioni pagate dei propri prodotti e dei propri servizi. È ovvio che poi sta all'etica dell'azienda valersi o meno di questi mezzi, perché il passaparola per risultare credibile e attendibile deve essere spontaneo naturalmente, no? I giovani sono svegli e i giovani dei social network ancora di più. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:31 minuti, ecco le principali notizie della giornata. Missioni all'estero creano tensione nella maggioranza. La Lega vuole il ritiro da Afghanistan, Libano e Balcani. Il PDL non ci sta, repliche dure da Frattini e La Russa. Resta aperto sempre nella maggioranza il fronte del Partito del Sud. Berlusconi promette più fondi e c'è attesa per una risposta da Lombardo o Miciche. Oggi c'è un consiglio d'amministrazione decisivo per risanamento, sul tavolo le dimissioni di Zunino, il titolo è sospeso in borsa. Sta meglio ed è già uscito dall'ospedale il presidente francese Nicolas Sarkozy, aveva avuto un malore mentre faceva sport. Ed è ancora in ospedale il pilota della Ferrari Felipe Massa, ma anche lui, stando a quel che dicono i medici e la scuderia, sta bene. Ronde e antironde, scontri a Massa tra ultradestra e ultrasinistra, tra poco l'intervista al sindaco. Il primo derby dell'anno è quello milanese, si è svolto a Boston, il Milan è stato bastonato dall'Inter. Il segretario del PD a notizia di poco fa, Dario Franceschini, chiede al governo e maggioranza di fermare il provvedimento sulle ronde dopo gli incidenti di Massa, insomma dopo gli scontri di sabato notte. Che cosa è successo a Massa? Che alcune persone sostenendo, diciamo così, di essere una ronda contro il crimine, legate all'ultradestra, si sono scontrate con le persone dell'ultrasinistra, ossia dei CARC. Diamo il buongiorno a Roberto Pucci, sindaco di Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci spiega un pochino che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo quello che probabilmente avverrà in molte altre parti d'Italia, e cioè che la istituzione delle cosiddette ronde porta la questione di controronde e quindi sono tutte politicizzate, sia le ronde che controronde, e questo crea quello che si è creato da noi, creare sicurezza si crea insicurezza, e questo in questo caso non vuol dire mettere tutti sullo stesso piano, perché poi da una parte le ronde in questo caso qui erano annunciate ma come sempre non fatte, perché sono assolutamente legittime, da noi le ronde non sono mai state istituite ma continuano a fare lo stesso. Dall'altra hanno abboccato una provocazione, perché da noi le ronde si chiamano SSS, cioè in una provincia decorata medaglia d'oro alla resistenza si chiamano le ronde SSS. Un gruppo di giovani di estrema sinistra hanno abboccato la provocazione e quindi è successo quello che è successo. Purtroppo questo è un frutto molto malato di una decisione politica presa altrove. È comunque testimonianza, sindaco, di un clima di tensione politica che si respira in città, questo è innegabile. Ma guardi, la città è assolutamente tranquilla, proprio assolutamente tranquilla, anche dal punto di vista della sicurezza. Non esistono problemi tali da chiamare in nessun modo al servizio ronde. La polizia lavora bene, i carabinieri anche, i nostri vigili fanno il servizio serale alla guardia di finanza, cioè, non ci sono problemi. Sono scelte politiche che vengono fatte a tavolino per creare tensione. È molto semplice, qualcuno a bocca come Lucci al mare, questa è la verità. Sì, tra l'altro sindaco, abbiamo letto che nella classifica del Viminale la vostra è la quinta città più sicura d'Italia. Tra l'altro, se non è sbagliato quello che hanno scritto i giornali, ci sembra di capire che lei abbia preso dei provvedimenti in merito alla sicurezza anche abbastanza importanti, insomma, ha armato i vigili. Per la verità, io questo non l'ho messo in relazione alla sicurezza, ma semplicemente alla sicurezza dei vigili, perché quando vanno a fare il loro lavoro la sera, l'armamento lo hanno richiesto, no? Diversamente avrebbero fatto come hanno fatto negli altri anni sciopero. Invece abbiamo fatto altre cose, abbiamo messo una quarantina di telecamere nei punti, diciamo, più sensibili della città, e questo è quello che noi abbiamo fatto. Ma poi in effetti lo dicono le statistiche, lo viviamo tutti i giorni, noi abbiamo qualche problema, ma di piccolo conto in termini di sicurezza, ma quello che, ripeto, hanno preso la palla balzo chi in questa città è di fatto comunque emarginato, sia l'estrema destra, che all'ultima europea ha preso meno dell'1% o l'1%, sia questi cacchi che sono 20 ragazzi che non evidentemente non sanno cosa fare e si alimentano uno con l'altro e creano questa situazione di tensione. Questi provvedimenti che ha preso, sindaco, ne parlavamo, insomma, quello che lei diceva per la sicurezza dei vigili, poi le 40 telecamere in un'amministrazione, la sua, che è sostanzialmente più a sinistra del PD, lo possiamo dire? Beh, ora, non è proprio così, perché il cuore che io rappresento fuoriusciti del PD, non da sinistra, ma semplicemente per ragioni di gestione interna. Abbiamo ovviamente la nostra sinistra, diciamo il vecchio, abbiamo fatto il vecchio Ulivo più l'UDC, quindi a questo punto di vista politicamente siamo abbastanza moderati, però il problema, le ripeto, è qualcuno che ha trovato il modo per stare sui giornali, per andare sulle televisioni, purtroppo questo è, e noi abbiamo bisogno di tutto meno che di questo. Grazie dunque a Roberto Pucci, sindaco di Massa, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a tutti voi. E salutando il sindaco, andiamo adesso invece dal generale Luciano Massetti, che è responsabile del Centro Operativo Aereo Unificato della Protezione Civile. Buongiorno, generale. Buongiorno a lei. E siamo con lei per fare un pochino un quadro anche oggi della situazione degli incendi in Italia. Sembra tutto un pochino più tranquillo, generale, così? Ma noi oggi non abbiamo grandi impegni in termini di impiego della flotta di Stato, quindi sugli incendi più preoccupanti. È ovvio che gli incendi minori vengono curati direttamente da terra, quindi non abbiamo questa visibilità. Al momento noi abbiamo solamente un incendio che è ubicato in Sicilia, nella località Avola, ma ovviamente con la disponibilità dei mezzi che abbiamo, a breve ne avremo ragione. Che quello generale in una riserva naturale, se non sbaglio. Credo di sì, esatto. Senta, generale, a livello di quel che sta succedendo quest'estate, si ha l'impressione che comunque il numero di incendi sia diminuito? Ha questa sensazione anche lei, anche sulla base dell'impiego di aerei che avete avuto quest'anno? Dunque, noi prima dell'inizio della stagione incendi boschivi, perché esiste questa stagione in termini di risorse che vengono messe assieme, procedure e regolamentazioni, tutte inquadrate nell'ambito poi della direttiva che emette il Presidente del Consiglio, La stagione inizia dal 15 giugno e finisce il 30 di settembre. Evidentemente sono date di riferimento flessibili nel caso ci siano delle variazioni. Per il primo mese non abbiamo avuto grandi impegni. Sì, ci sono stati 7, 6, 5 occasioni di intervento, ma che sono estremamente ridotte rispetto agli anni trascorsi. Non parliamo poi del 2007. Ma questo è solo per una ragione climatica generale? Adesso cerco di illustrarla. Quest'anno è piovuto molto, quindi ed è nevicato molto, il che significa che la vegetazione cresce molto, ma all'inizio è bagnata, per cui certi fenomeni non si innescano. La cosa preoccupante è che una volta che la vegetazione però diventa secca, evidentemente ogni innesco crea un danno maggiore. Quindi nell'ipotesi e nelle elaborazioni che sono state fatte al nostro centro, sostanzialmente si prevede un prolungamento della stagione più avanti, come peraltro è successo lo scorso anno, in cui c'è stata una minore intensità ma si è spostata verso settembre la stagione. Quindi questo è quello che ci attendiamo. Quindi abbiamo avuto un mese di grazia sostanzialmente, poi a partire dai giorni ormai divenuti purtroppo tristemente famosi anche per la perdita di vite umane, dal 23, 24 e 25 ci hanno impegnato fortemente. Benissimo, grazie al generale Luciano Massetti, responsabile del Centro Operativo Aereo Unificato della Protezione Civile, per essere stato con noi. E noi continuiamo a parlare di incendi, ma lo facciamo andando a guardare che cosa succede all'estero e che cosa ne dicono i giornali, Giulia Crivelli. Buongiorno, sì, come sappiamo è un problema un po' di tutti i paesi del Mediterraneo, quindi El País, per esempio, oggi il giornale spagnolo ha un grande approfondimento sugli incendi che hanno colpito il paese fino ad oggi, perché rispetto allo stesso periodo del 2008 sono già raddoppiati. C'è una mappa su El País dove si spiega quando è iniziato l'incendio, quindi sono tutti incendi del mese di luglio, e quanti ettari sono bruciati. Sono cifre devastanti e naturalmente le ragioni sono sia climatiche, forse come diceva anche il generale prima, sia purtroppo di natura dolosa. Anche la Spagna è molto soggetta a questi incendi dolosi per i motivi più vari, dalle proteste dei contadini a quelle di chi spera che così i terreni diventino edificabili, a chi magari lo fa semplicemente perché è stupido, perché esistono anche appunto chi appicca gli incendi, sono previste, spiega il País, pene gravissime, così per leggerezza. Questo in Spagna. In Francia invece? In Francia anche sappiamo, abbiamo visto settimana scorsa il disastro intorno a Marsiglia, tra l'altro anche lì appiccato quasi per caso per un'esercitazione della legione straniera. Invece oggi sia Le Figaro che Liberation che altri giornali parlano di quello che sta succedendo in Corsica. Anche la Corsica, come la Sardegna, è molto soggetta in estate a questi incendi. Ci sono delle foto con tutti molti animali morti, perché gli animali spesso sono gli ultimi che riescono a scappare, in questo caso molti cinghiali. È quella il titolo di Le Figaro. È una valle corsica si trasforma in una valle infernale. Infatti la Corsica, sappiamo, ha una parte di entroterra con strade, chi l'ha visitata lo sa, con strade anche molto, insomma, non facilmente percorribili, quindi per i soccorsi ovviamente è un problema, ed è un problema anche arrivare dal mare con i Canadair. Giulia, il Financial Times invece si occupa del prossimo venturo bubbone finanziario. Bisogna dire la verità, è una cosa della quale si parla da mesi e che non arriva mai. Non sappiamo se dire per fortuna o sì, purtroppo, insomma. È questa paura, come dicevi tu, che quello che è successo in America, cioè questa bolla delle carte di credito. Sappiamo che gli americani, quando aprono i portafogli, fanno sfoggio di tantissime carte di credito, cosa che in Europa e soprattutto in Italia è molto meno diffusa. Che ovviamente si tratta di debiti, perché di fatto quando compriamo con una carta di credito compriamo a debito, e nonostante appunto si chiamino carte di credito, ma il secondo Financial Times bisogna stare molto attenti. L'Italia in effetti è messa meglio di tanti altri paesi, ma comunque quella che è messa peggio è la Gran Bretagna, che ha il sistema finanziario più simile, sappiamo, a quello degli Stati Uniti. Però questo viene anche quantificato da Financial Times, questo eventuale buco sarebbero il 7% di tutti i crediti che le società società che emettono le carte di credito o le banche hanno a non essere più esigibili, e la cifra è notevole, sarebbero 2,467 miliardi di dollari. Quindi vedremo, Financial Times decide di aprirci, quindi forse la preoccupazione è reale, però appunto aspettiamo, poi magari è una previsione pessimistica, poi alla fine i soldi verranno ridati in qualche modo. Grazie anche per oggi Giulia, ci sentiamo domani. E ora chiudiamo questa parte del GR Extra Large parlando di una nuova trasmissione di Radio 24 che è in arrivo oggi, è a partire dalle 18, vero Franco D'Assisti? Verissimo, verissimo. Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Ma guarda, il titolo è il film della mia vita, e non è una trasmissione autobiografica ovviamente, ma è un po' il film della vita di tutti noi. È capitato a tutti noi qualche volta di rivedere in un film un pezzo della nostra vita, un percorso, un compagno di viaggio, immedesimarsi. E il tuo di film qual è, Franco? Ah beh, guarda, diciamo che è difficile trovare tutta la vita in un solo film, però per esempio c'è un film di Sergio Rubini, adesso tu mi cogli ovviamente impreparato, però di Sergio Rubini. Certo, l'ho fatto apposta. Di qualche anno fa che raccontava di una vacanza, di un'estate vissuta in Puglia quando arrivano le milanesi, no? Ecco, io ho vissuto tante vacanze in Puglia attendendo che arrivassero queste liberate donne del nord, quindi sicuramente ho rivisto un pezzo della mia adolescenza lì, però a tutti noi è capitato. Ecco, cercherò di riflettere proprio su questo tema, un tema al giorno, un film emblematico di una situazione, di un sentimento al giorno. Cominciamo oggi proprio con l'amicizia come tema e con i film di Pupi Avati come massimo cantore di questo sentimento del cinema italiano. Pupi Avati che sarà ospite della nostra trasmissione, lo ricordo, dalle 18 alle 18:30. Domani continueremo con il tema parenti serpenti. Mario Monicelli l'aveva raccontato, cosa succede quando c'è una cena di Natale, un pranzo di Natale, tutti ci ritroviamo con i nostri rancori e le nostre acredine. Ecco, cercheremo di chiedere alla gente, quindi sarà una trasmissione aperta al pubblico, in che film si è rivista, in quale film magari su quel tema o su altri temi si è vista appunto riflessa e immedesimata, anno per anno e nella storia del cinema. Ricordo solo una cosa, ci saranno dei bellissimi premi per chi parteciperà in diretta con noi, perché avremo tanti biglietti per il cinema, vogliamo mandare la gente al cinema e lo faremo giorno per giorno. Bene, grazie Franco D'Assisti. Dunque ritrovate la trasmissione quest'oggi su queste frequenze, naturalmente alle 18. 13:47 minuti, 18 secondi e buongiorno a Dario Ricci, nostro inviato a Roma che sta seguendo i mondiali di nuoto. Buongiorno, buongiorno Simone. Buongiorno anche a Daniele Popolizio. Buongiorno. Buongiorno. Dario, ci spieghi direttamente tu chi è il dottor Popolizio? Beh, possiamo dire così che come Federica Pellegrini è un allenatore in piscina, che è Alberto Castagnetti, il CT anche della Nazionale Azzurra, così ha anche un allenatore non solo per il corpo ma anche per la testa. Sappiamo che i 400 metri erano state la gara dell'ansia, dei malori, dello stress per Federica, è diventata la gara dell'oro, dei primati, e questo grazie anche al professor Popolizio, che è lo psicologo che segue la preparazione mentale di Federica Pellegrini. E certo, perché lo ricordiamo che alle Olimpiadi di Pechino, data 11 agosto 2008, gara dei 400 stile libero, che tra l'altro Dario ci hai raccontato proprio tu da Pechino, si concluse solamente con un quinto posto nonostante avesse fatto Federica il record olimpico. Dottor Popolizio, come si aiuta un atleta ad uscire da un impasse di questo genere? Mi sento intanto di allargare un po' la domanda, perché diventa riduttivo ragionare solamente sul discorso di un piccolo blocco, di un'ansia, no? Sì. Oggi nello sport ad alto livello serve sicuramente curare la testa e dopo aver messo il corpo in condizioni di gareggiare. Gli ingredienti indispensabili sono quelli del talento, chiaramente, Fede questo ce l'ha senza dubbio, il suo allenatore la prepara da anni ormai ai vertici, e quello che mancava, e lei è stata brava a capirlo già tre stagioni insieme al Circo Canottiere Niene, è stato quello di preparare anche l'aspetto psicologico. Diciamo che il problema avuto era, che era partito poi da Genova, no? Era un problema che era dovuto fondamentalmente a un malessere fisico che lei aveva avuto e che risaliva a un asma che poi è stata trovata a livello medico. Questo ha generato poi nel tempo una paura di ricadere, no, e di risentirsi male. Federica ha avuto per grosso tempo paura di morire, perché è stata questa la sensazione che lei ha avuto quel giorno in vasca quando la raccolsero poi, no, salvandole la vita e andando in iperventilazione. Da lì è partito tutto un processo psicologico che abbiamo spento a tempo di record e abbiamo ripreso la solidità e la sicurezza su quella gara che è culminata con il successo nei giochi del Mediterraneo. Fatto questo, al campionato del mondo c'erano le normali tensioni di un mondiale e di un atleta che tutti quanti sapevano che doveva vincere. Ecco, dottore, tra l'altro in una delle interviste che abbiamo sentito al Pellegrini nella giornata di ieri, nella giornata del trionfo, abbiamo sentito appunto questo, che lei diceva: l'importante in una gara come questa, dice, puoi essere preparato quanto vuoi, ma se non ci sei al 100% con la testa, non ci sei. Quindi evidentemente i suoi insegnamenti sono passati, no? Fede, la ringrazio perché dice quello che ci diciamo sempre quando siamo da soli nei colloqui. Sì, fondamentalmente è così, alla fine è la testa che guida i muscoli, non il contrario. Nello sport spesso se lo dimenticano, anche negli sport di squadra. Lei è stata molto brava, perché poi nel campo umano conta sempre anche il potenziale, cioè lo spessore che hai tu anche come persona. Non posso rivelare per segreto professionale, ma non potete immaginare le difficoltà a livello personale, proprio, cioè, in chiave intima, superate da Federica in queste tre stagioni, e sia le Olimpiadi che ci hanno lasciato un po' l'amaro in bocca con quel 400, e ora il Mondiale io penso che ci siamo ripresi quello che ci aspettava, e credo che adesso il Mondiale sarà un po' in discesa e probabilmente vedrete una Pellegrini sempre più convinta e che si divertirà anche a far emozionare il pubblico. Un'ultima domanda brevissima, sì. Dottor Pavolizio, abbiamo sentito nelle interviste del dopo che subito prima della gara, fino a 10 minuti prima della gara, Federica ha detto che aveva la febbre, in sostanza. Secondo lei può essere un... se non vorremmo andare a scavare... Fenomeni psicosomatici. Sono fenomeni di forte tensione che ti possono dare anche poi delle sensazioni di febbre o effettivamente un cambiamento di temperatura, ma poi non ho parlato col medico, quindi sinceramente non mi posso spiegare, però mi sembra che insomma la coincidenza sia sì, un pochino forte. Sia un pochino forte. Bene, e la ringraziamo, Daniele Popolizio, psicologo che appunto ha aiutato la Pellegrini ad uscire dal tunnel, e rimaniamo però con il nostro Dario Ricci, che tra l'altro ci ha aiutato ad avere il contatto con Popolizio. Dario, per fare un pochino il punto di questa giornata, della giornata che ci attende, insomma, dopo l'ubriacatura e la gioia di ieri. Eh sì, poi tra l'altro il professor Popolizio non l'ha sottolineato, ma anche ieri, insomma, intorno alle 17 Federica ha avuto bisogno di questo supporto psicologico, c'è stata una crisi di pianto, insomma non è stata una giornata facile quella che poi si è conclusa con una festa straordinaria, no? Beh, invece oggi siamo rimasti tutti stregati sia dal tempo che dal sorriso di Alessia Filippi. Non meno tensioni per lei, perché Alessia è la campionessa di casa qui a Roma, amata, forse è l'unica che può avvicinarsi a Totti, no? Per l'amore che gli viene riversato dalla città. Beh, Alessia si è qualificata in scioltezza per la finale dei 1500 metri stile libero, ha detto punto all'oro e sono tranquilla, e insomma questa Italdonne ci sta veramente trascinando alla grande, direi. Notizie da Phelps, Dario? Notizie da Phelps. Phelps è secondo nella qualificazione alle semifinali dei 200 metri stile libero. Questo farebbe pensare che tutto va bene, ma gli occhi degli osservatori lo vedono un Phelps un po' più umano e quindi conseguentemente un po' più battibile da questo Biedermann, che ieri oro nei 400 metri stile libero, oggi ha stabilito il record dei campionati sui 200, e più di uno scommette sul tedesco contro l'americano. Staremo a vedere domani. Staremo a vedere fatti che forse renderanno un pochino più divertente questo mondiale. Dario Ricci, lo risentiamo tra poco in A Tempo di Sport. Naturalmente noi parliamo di nuova influenza, perché è venuta la prima morte di un italiano colpito dal virus. Giulio Masserano era un ingegnere elettronico che nel 1993, insieme alla moglie Grazia Rizza, si era trasferito in Argentina, dove aveva aperto un'agenzia di viaggi, Erika, come il nome della figlia, che vive a Roma e che lui andava a trovare un paio di volte l'anno. Masserano si è spento ieri all'ospedale di Buenos Aires, dove era ricoverato da un mese a causa di una polmonite conseguenza della nuova influenza. Aveva 56 anni. La prima vittima italiana del nuovo virus è morta in Argentina, uno dei paesi dove l'H1N1 sta colpendo in modo più aggressivo. L'allarme era già scattato a fine giugno, quando le autorità di Buenos Aires avevano dichiarato l'emergenza sanitaria nella provincia. I primi a essere colpiti erano stati medici e infermieri, facendo registrare un picco del 40% di assenze negli ospedali, un fatto che aveva messo in ginocchio la sanità pubblica del paese. Per far fronte all'emergenza, il governo ha stanziato 190 milioni di dollari, ha chiuso tutte le scuole fino al 3 agosto e le camere del Parlamento fino al 31 luglio. Le persone affette dal virus ad oggi sono 11.641. Nelle ultime 24 ore, intanto, nel mondo si sono registrati 814 nuovi casi. Secondo i dati forniti dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, i contagiati sono 160.000, mentre il numero delle vittime è salito a 911. Il vaccino dovrebbe essere definitivamente pronto per novembre. Si tratta di un affare da oltre 10 miliardi di dollari che verrà gestito da 4 multinazionali farmaceutiche che, dopo i contagi di quest'estate, si troveranno davanti ad un ampio mercato. Zelia Pastore, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a chiudere con un nostro approfondimento. 100.000 nuovi alloggi in 5 anni per fascia a basso reddito, lo prevede il piano casa annunciato qualche giorno fa dal governo, ma a parte l'edificazione di nuovi alloggi, ci sono altre soluzioni a cui pensare? Abbiamo cercato di capirlo. Il numero impressiona: 100.000 nuovi alloggi in 5 anni, destinati a nuclei familiari a basso reddito, giovani, anziani, studenti, precari. Ma è tanto? È poco? Costruttori, enti locali e sindacati concordano nel dire che è un primo passo ma non sufficiente, perché c'è necessità di 1 milione di case economiche e in affitto. Il punto è: serve costruirne di nuove? Stefano Boeri, architetto e urbanista al Politecnico di Milano, pensa di no. Non metto in discussione il fatto che ci sia certamente bisogno di tutti quegli alloggi, ma in realtà noi nelle città italiane abbiamo già un immenso patrimonio di appartamenti che potrebbero facilmente essere destinati a questo tipo di popolazioni con un affitto mirato e che sono invece vuoti. Sono vuoti perché molti piccoli proprietari hanno paura. Noi stiamo continuamente costruendo, progettando espansioni delle nostre città quando invece abbiamo il vuoto, il deserto dentro nelle città. Alle porte di Milano c'è invece un sindaco che ha deciso di non costruire più e per questo ha dovuto alzare le tasse, ottenendo comunque un grande successo elettorale. È Domenico Finiguerra, primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano. I comuni sono strangolati con una situazione economica abbastanza di costante precarietà e quindi vedono nella scorciatoia del consumo del territorio, degli oneri di organizzazione, un modo per pareggiare il proprio bilancio, solo che si fa un conto sbagliato, perché la terra non è infinita e quindi prima o poi finisce. Il nostro bilancio sta in piedi senza oneri di urbanizzazione, la parte corrente. Questo naturalmente ha obbligato tutta la politica, quindi sindaco, assessori e funzionari, a eliminare moltissime spese. L'ultimo censimento del SICET, sindacato degli inquilini, parla di 5 milioni e mezzo di abitazioni vuote in Italia. A Roma, stando all'Istat, sono 245.000, a Milano 80.000. Parlando poi di affitto, c'è da dire che in Italia meno di 3 case su 10 sono in affitto, quando ad esempio in Germania sono 6 su 10. I timori dei proprietari però sono giustificati. Se nel 2008 gli sfratti per morosità sono stati quasi l'80% del totale dei 51.000 emessi. Un esempio virtuoso arriva da Torino, dove il comune ha aperto un'agenzia immobiliare. L'agenzia fa da garante fra inquilino e proprietario. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Le principali notizie della giornata: missioni all'estero, tensione nella maggioranza, la Lega vuole il ritiro, repliche dure da Frattini e La Russa. E resta aperto il fronte del Partito del Sud con Berlusconi che promette più fondi. Oggi CDA per risanamento, sul tavolo ci sono le dimissioni di Luigi Zunino. Sta meglio ed è già uscito dall'ospedale il presidente francese Sarkozy, mentre è ancora in ospedale il pilota della Ferrari Felipe Massa, ma starebbe meglio. Primo derby dell'anno e quello milanese si è svolto a Boston, il Milan è stato bastonato dall'Inter. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Fabio Cantadori, al coordinamento Daniele Biacchessi. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large torna domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.